Capitolo 6. Gli esami di Filippenko sono in ritardo e quello già smania per tornare a Smolensk, al duro lavoro che lo aspetta. Bogdanov percorre il corridoio a passi nervosi, con una cartella clinica sotto il naso, come se qua ce la prendessimo comoda. Scorge un'ombra massiccia che avanza verso di lui. Ramonov, l'economo dell'istituto. Si finge talmente assorto nelle carte da non vederlo, ma alla fine gli concede un saluto distratto. «Buona giornata, compagno». L'altro lo ricambia con sussiego, se sapesse della lettera che sta per planare sulla scrivania del commissario Semashko. Il compagno Ramonov interferisce nelle questioni cliniche, scavalca le decisioni collettive, gestisce i fondi come meglio crede. E c'è il forte sospetto che ne intaschi una parte. Prima o poi le prove salteranno fuori. Come col predecessore, quell'azzero viscido che voleva riempire l'istituto dei suoi amici del Caspio. Diceva in giro: «Bogdanov è controrivoluzionario, un antibolscevico. Sai che novità, un'accusa lunga 20 anni». Il direttore sprofonda nella cartella clinica e cammina così fino alla porta dello studio. Davanti alla soglia si aggira impaziente un ragazzo biondissimo, dall'aria efebica e con abiti un po' larghi, in evidente attesa. «Posso aiutarvi?» «Sì, se sei Aleksandr Bogdanov». Occhi talmente chiari da essere trasparenti. «In carne e ossa». «Sei l'autore di questo libro?» Un volume sottile. Bogdanov scruta la copertina. «Stella rossa», la prima edizione. «È un mio vecchio racconto, sì». «E questo deve essere un ammiratore, uno di quelli che amano ingaggiare discussioni eterne sui viaggi spaziali e la chimica delle comete. Da quando l'istituto ha aperto i battenti, ne capita di gente strana. Eteronauti, marxisti eretici e soprattutto appassionati lettori. Sarà che i suoi romanzi si possono leggere come saggi, e i saggi sono pieni di idee da romanzo». «Cosa posso fare per voi?» «Sono la figlia di Leonid Volokh, l'uomo che ti ha ispirato questo libro. Lo sto cercando». Bogdanov stringe una mano tiepida e magra. Come tenere in pugno un passero col terrore di soffocarlo. Un volto emerge dalla memoria. I tratti sfumati, intaccati dal tempo. Una dacia in Finlandia. I faraglioni di Capri. Leonid il marziano. «Prego, accomodatevi». Di fronte alla scrivania di Mogano c'è una sedia imbottita con i piedi a zampa di leone, sopravvissuta ai cambi di proprietà e ai traslochi. Come la scrivania stessa e la poltrona che accoglie il direttore. Su tre pareti corrono le scaffalature di una libreria alta fino al soffitto. Alle spalle di Bogdanov, la finestra affaccia sulle aiuole di un giardino. Strana ragazza che sembra un ragazzo. Denti bianchissimi e perfetti. Le orecchie molto piccole, ben sagomate. Pallida. Forse troppo. Deve essere anemica. «Non ho mai saputo che Leonid Volokh avesse una figlia». «Nemmeno lui lo ha mai saputo, almeno credo». Bogdanov allinea con le dita il bordo dei fogli che gli stanno di fronte. La portineria dell'istituto dovrebbe avvisare di visite come questa. Lasciano entrare le persone come se fosse un ufficio postale. «Dunque immagino sia stata vostra madre a raccontarvi di Leonid». «Sì, ma è morta quando avevo 6 anni». «D'accordo, una rapida incursione nel passato, quanto basta per liquidare questa ragazza, che certo non ha colpe di essere orfana e di voler sapere qualcosa del proprio genitore». «Non so cosa vi abbia raccontato vostra madre. Erano tempi difficili. Vivevamo in clandestinità, esuli. Durante un'azione in Georgia, Leonid rimase traumatizzato dallo scoppio di una bomba ed ebbe serie conseguenze. Per alcuni mesi non fu, come dire, presente a se stesso. Soffrì di allucinazioni e si convinse di essere stato su un altro pianeta. Un pianeta socialista. Quando tornò in sé mi raccontò del suo viaggio». Danny non pare affatto stupita. «Nei tuoi romanzi hai scritto che quel pianeta è Marte. Te l'ha detto Leonid?» «Per la verità no. Quella è stata una mia trovata. Per il gioco di parole con il pianeta rosso, sapete. C'è molta farina del mio sacco nel libro, come nel successivo, Ingegner Manny. Quando lo scrissi avevo perso da un pezzo le tracce di Leonid». Danny non gli stacca gli occhi di dosso. «Sai dov'è adesso?» Il direttore scrolla la testa con decisione. L'ultima volta che l'ho visto eravamo in Italia, direi, poco meno di 20 anni fa. Dopo c'è stata la guerra, poi la rivoluzione e ancora la guerra. Mi dispiace non poter esservi di aiuto. Si alza. Tempo di chiudere l'incontro. Per quanto commovente possa essere questa storia, c'è un centro medico da mandare avanti e a 54 anni il tempo è un bene prezioso. Sta per aggirare la scrivania e accompagnare la ragazza alla porta quando lei riprende. Io devo trovarlo. Tono agitato e respiro affannoso. Mia cara ragazza, le risponde lui, questo paese è davvero molto grande e altrettanto grandi sono gli eventi che lo hanno travolto. Cercare un uomo in mezzo a una rivoluzione è come cercare un preciso filo d'erba in mezzo a un prato. Bussano alla porta. La salvezza. Natalia e Vlados. La ragazza balza in piedi. È ancora più pallida, occhi smarriti, la fronte imperlata di sudore. Vi sentite bene? Lei afferra il libro e lo stringe al petto. Aiutatemi a trovarlo, ti prego. È tanto importante. Non solo per me, per tutti. Voi avete i treni, gli aeromobili, gli animali morti che sembrano vivi, ma non sapete quello che può succedere. Non sapete. L'aitante Vlados in azione, appena in tempo, prima che la ragazza crolli sul pavimento e subito Natalia lo aiuta a sorreggerla. Sdraiatela, ordina Bogdanov. Mettetele un cuscino sotto la testa. Aleksandr Aleksandrovich, lo fulmina Natalia. Prendi un po' d'acqua invece di dirci cosa dobbiamo fare. Bogdanov riempie un bicchiere dalla caraffa accanto al samovar. Lo passa alla moglie, china sulla ragazza. Natalia bagna un fazzoletto e terge la fronte di Danny. Vado a cercare una barella. Bravo, Vlados. Chi è? Domanda Natalia, appena rimangono soli. Al collo della ragazza pende un ciondolo, scivolato fuori dalla camicia. Il dado di un bullone a 6 facce. Sul bordo esterno è inciso «Proletari di tutti i paesi unitevi». Un oggetto già visto. Perché abbiamo fallito? La voce nasale di Leonid Volok tra le mura di una cella. Il carcere delle croci a San Pietroburgo. Il rovello di un'intera generazione. La domanda. La domanda di Natalia. È la figlia di un vecchio compagno. Il ciondolo che porta era suo. Quanti anni può avere? Natalia passa ancora il fazzoletto sulla fronte e le gote della ragazza. Non più di 20. L'avevo scambiata per un ragazzo. Perché porta abiti da uomo? Chissà. Ecco Vlados con la lettiga. Sollevare il capo è un gioco da ragazzi. Pare una bambola di carta. Troviamole un letto e facciamole gli esami del sangue. Sospetto l'anemia. Prima bisogna darle un pasto caldo, interviene Natalia. È quello di cui ha più bisogno, povera ragazza. Bogdanov osserva ancora il giovane volto. È passato troppo tempo perché possa ritrovarci qualcosa di Volok. I lineamenti del suo ritratto sono inchiostro bagnato. Più lo rigira e più si scolora. Cosa voleva da te? Sapere se ho notizie del padre. Non so che fine abbia fatto. Una carezza materna sul viso bianco. Poverina, la porto nella 4, c'è un letto libero. Vlados spinge la lettiga fuori dallo studio. Bene, ora di rimettersi al lavoro. Bogdanov raccoglie il libro che è caduto a terra. Lo appoggia sulla scrivania e torna sui dattiloscritti che la ingombrano. Ne prende uno, legge le prime righe. La nostra epoca è ancora caratterizzata da una cultura individualista che non permette di apprezzare appieno i nostri metodi. Perché abbiamo fallito? E il punto di vista che li sottende. Era il tempo della prima rivoluzione, quella del 1905. I principi del lavoro collettivo si stanno appena affermando quando trionferanno la prima volta che tutto è parso possibile. La nascita del Soviet di San Pietroburgo, lo sciopero a oltranza, gli operai che si autoriducono l'orario di lavoro, la serrata dei padroni, i licenziamenti, l'esercito che circonda l'istituto tecnologico delle università, la sede del Soviet, gli arresti di massa. Era l'autunno di un tempo diverso. Le parole di Trotsky infiammavano i delegati operai. Abbiamo la libertà di riunirci, ma le nostre riunioni sono circondate dai militari. Allora Trotsky era un menscevico, membro della minoranza del partito. Come adesso, ancora in minoranza, l'opposizione unita contro Stalin. La resa dei conti si avvicina e il conto è lungo. È cominciato almeno 22 anni fa. Abbiamo la libertà di esprimerci, ma la censura non è cambiata. Non è male essere fuori dai giochi. Chi se ne importa del potere? Per organizzare una società è più importante la cultura. La tecnologia insegna che i sistemi autoritari sono destinati a crollare sotto le loro contraddizioni. Catene di comando troppo lunghe, dispotismo, lotte intestine, dispersione di energia. Un motivo in più per non tollerare l'autorità. Abbiamo la libertà di istruirci, ma le università sono occupate dai soldati. Neve schizzata di rosso, i corpi immobili nelle strade dopo la fucileria. I soldati irrompono al Soviet in un giorno di dicembre del 1905. La ressa, le mani alzate. Le nostre persone sono inviolabili, ma le prigioni sono affollate. Sbattuti in una cella oscura, uscita da un incubo medievale. Abbiamo una Costituzione, ma l'autocrazia è sempre là. Un buco fetido, gomito a gomito con Leonid, taciturno, cuore operaio e testa d'ariete, reduce dalla guerra contro i giapponesi. Il compagno delegato Volokh, mani forti e ruvide. Mostra l'anello che si è costruito in fabbrica, per colpire più duro. Lo stesso che quella strana ragazza porta appeso al collo, più eloquente di una carta d'identità. Abbiamo tutto e non abbiamo niente. Lunga attesa di finire davanti al tribunale, rimuginando su quei mesi convulsi. Natalia gli fece avere i suoi taccuini, grazie a un secondino devoto all'anarchia. Scrivere come un invasato anche al buio, fino a concludere il terzo volume di Empirio Monismo. Che roba è? Una nuova filosofia, il marxismo, alla luce delle scoperte scientifiche più recenti. Sarebbe a dire? Bella sfida. Come ai tempi dell'università, intere serate trascorse a insegnare nelle scuole per operai, sforzandosi di rendere comprensibili i concetti più difficili. Vedi questo foglio? Toccalo, annusalo, ascolta che rumore fa. Tutte queste sensazioni, tu le organizzi insieme e le chiami foglio. Mica soltanto io, tutti lo chiamano così. Giusto. Perché oltre alla tua organizzazione, ce n'è una collettiva che ci serve per agire insieme e che chiamiamo realtà. E cosa c'entra col marxismo? C'entra, perché vuol dire che la realtà è fatta delle nostre sensazioni e del modo in cui le teniamo insieme. La materia, allo stato puro, non esiste. Se sei un marxista, se vuoi cambiare la realtà, devi cambiare le sensazioni e il modo di organizzarle. E come si fa? Cambiando la testa delle persone, cioè la coscienza collettiva, la cultura. Un pestone sul piede, a tradimento. Ti ho fatto male, Bogdanov? Devi cambiare il tuo modo di organizzare le sensazioni. Una calda risata, buio. E una domanda più difficile, sospesa nell'aria stantia della cella, come un dilemma insolubile o un macigno pronto a schiacciarli. Perché abbiamo fallito? Il quesito degli anni a venire. La risposta di Lenin? Il partito deve dirigere i lavoratori con più decisione. Sbagliato. Sono i lavoratori che devono dirigere i lavoratori grazie a una nuova visione del mondo. Il partito deve aiutarli a costruirla. Abbiamo tutto e non abbiamo niente. Usciti su cauzione, nel giro di un mese ottennero il permesso di espatriare. Il Granducato di Finlandia, benché governato dallo zar, era meno sorvegliato dalla sua polizia. Scelsero la dacia di Gavril Leiteisen, un medico bolscevico, a Kuokkala, un'ora di treno da San Pietroburgo. Erano vivi, insieme a mogli e compagne, sopravvissuti al fallimento di una rivoluzione, pronti a ricominciare. Avevano tutto e non avevano niente. Servivano organizzazione, armi e denaro. Il denaro subito, per ottenere il resto. Compagni, andiamo a prenderlo là dove sta.